Eccoci qua, 8.03 minuti, quasi 8.04, quindi puntuale parte il Voltiamo Pagina con un'informazione di servizio che potrebbe interessare anche Silvia e Stefano. Quest'oggi a Ferrara ci sarà la presentazione in municipio di inizio 2024 per la stagione al Jazz Club Estense Il Torrione, quindi già da venerdì porteremo i contenuti oltre che un aspetto esteso per la stagione concertistica del Jazz Club Estense. E buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Diamo il buongiorno anche a Stefano, il nostro notaio per il quiz. So che Stefano è molto attento alla programmazione del Torrione e non solo del Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30 per quanto riguarda il palinsesto di Radio Città Fujiko. Ci sarà poi, noto già, alcuni contenuti che danno informazione per il Paradiso Jazz in questa, mi pare, sedicesima edizione, quella del 2024. Quando comincia? Verso aprile, però la conferenza stampa di presentazione già nell'aria, noto in alcuni canali di informazione che intanto ci sarà, e questa è una cosa molto bella. Oltretutto avremo un aspetto complementare al Torrione grazie a Marco Coppi, che porta la buona musica più vicini a noi, più vicina a noi. Quindi primavera in musica a Bologna, questo inizio inverno saremo a Ferrara per quanto riguarda il buon jazz. Per quanto riguarda la letteratura, partiamo adesso con il Voltiamo Pagina. Vedo che hai una copertina che già distingo come casa editrice. Non so assolutamente nulla, a quanto pare, di questo lavoro che hai portato per aprire la playlist letteraria, playlist musicale molto curiosa, già in partenza qua al mio fianco, ma cominciamo con quella letteraria. Allora, quando ti dirò di cosa tratta questo libro, vedrai che la playlist musicale è tutta questa volta in sintonia col libro. Ok. Allora, è ovvio che non lo puoi conoscere perché è l'opera prima di una scrittrice inglese che neanche io sapevo che esistesse, e si chiama, il titolo del romanzo è Crisalide, l'autrice Anna Metcalf e l'editrice è la NN Edizioni. Dunque, è la storia di una ragazza che a un certo punto della sua vita comincia a fare bodybuilding in maniera molto okay, molto rigorosa, sviluppa dei bei muscoli e tutto questo la porta contestualmente si allontana dalla vita di relazione, si allontana sempre di più dalla vita civile, lascia il lavoro, si rinchiude in una casa isolata in mezzo alla campagna, da cui posta dei video di lei che fa pesi. No. Di lei che fa degli esercizi, delle non so come si chiamino, delle figure yoga, okay, sempre più complesse, che mantiene in completo immobilismo per ore. Quindi lei ha imparato a stare immobile, al punto che, siccome le fa all'interno, cioè anzi all'esterno, in questo giardino dove ci sono degli alberi, viene a identificarsi con gli alberi, diventa essa stessa una sorta di vegetale. Ha una filosofia attinente, no? E questi video hanno un seguito enorme, diventano, come si dice, virali, per cui lei ha moltissimi, diventa un influencer, ha moltissimi followers che la seguono veramente tipo pifferaio magico, per cui e iniziano degli emuli anche, si ritirano dal mondo, ecco. Cominciano tanti giovani soprattutto cominciano a scomparire perché seguono lei, che lei, il suo credo è allontanatevi dal mondo e state in solitudine, solo in solitudine si sta bene. Questi kikumori legati alla figura della natura, alla fisicità, alla meditazione e anche la spiritualità, se vogliamo, dello yoga con la solitudine. Allora, il libro raccontato così sembrerebbe una gran stupidaggine, no, diciamocelo pure. Quello che invece è interessante è che la storia non viene raccontata linearmente come ho fatto io, ma viene narrata da tre testimoni oculari, cioè tre persone che hanno visto il cambiamento di questa, la metamorfosi proprio di questa donna in tre momenti diversi della sua vita. e sono un uomo che è l'ultimo uomo con cui lei ha avuto una relazione molto passeggera, ma soprattutto è un frequentatore della sua palestra, per cui lui è rimasto e sbalordito da come questa donna appunto facesse dei pesi sempre più pesanti, cioè facesse degli si allenasse in maniera impegnativa, impegnativissima, facesse cose che lui non riusciva assolutamente a fare. Apro una parentesi, quest'uomo è un disadattato, un asociale. E quindi si trovano. Sì, in qualche modo sì, è uno che vive solo, che fa un lavoro, non si capisce bene che lavoro sia, ma fa un lavoro da casa, per cui non ha relazioni con nessuno, se non con la sua mamma, ma al telefono. E rigorosamente. Al telefono, sì. E quindi con questa donna, viene affascinato da questa donna, e la quale a un certo punto intrattiene una relazione con lui, una relazione stranissima, cioè che possiamo definire di tutto fuorché sentimentale, in quale, forse lui può anche essere un po' innamorato, ma lei proprio no. E poi a un certo punto questa donna sparisce, quindi lui racconta di questa strana situazione in cui si è trovati in mezzo. La parte centrale, che è la più lunga, è raccontata dalla madre di questa ragazza, e qui impariamo un sacco di cose, perché impariamo che ha avuto un, che prima di tutto che non ha padre, che ha avuto un'infanzia molto difficile perché soffriva di tremori. Improvvisamente cominciava a tremare, non erano neanche convulsioni, erano dei tremori che la prendevano, ma anche non necessariamente quando era sotto stress. Quindi questa bambina tremava di continuo, chiaramente non erano non era una situazione facile da affrontare in ambiente scolastico, quindi certo, non aveva amici, eccetera. Fin tanto che una maestra non le consegna, una maestra che la prende in simpatia, non le consegna una cassettina con degli esercizi di meditazione che lei, che aveva già provato tutti i tipi di meditazioni, di agopunture, di, insomma, di terapie possibili e immaginabili, con questa cassettina riesce in qualche modo a calmarsi. E qui vediamo proprio il rapporto tra la madre, che ha tanto ha fatto per lei ma non è riuscita a combinare niente, e questa maestra che solo con una cassettina riesce, e la madre che in qualche modo è gelosa, e la figlia che non fa altro che dirle: tu non sei come la maestra Tammy, eccoci, la maestra Tammy mi vuole bene, Tammy, eccetera. Vabbè, siamo a livello di scuole elementari, sì, ma, ultimo anno della scuola elementare. Dopodiché impariamo che nell'adolescenza le cose sono andate anche peggio, perché questa ragazza, essendo così un po' strana, è stata molto bullizzata dalle sue compagne, ma invece di probabilmente ci stava anche male, però non si sa, lei ha sviluppato una tecnica di distacco, per cui non sembrava proprio di indifferenza, sì, di che sembrava proprio che non gliene interessasse nulla, e in questo modo è arrivata fino alla laurea, è entrata a far parte di uno studio legale nel quale si è intrecciato una relazione con un collega, relazione che poi avevamo già imparato un po' da quanto lei aveva, si era lasciata sfuggire più che aveva raccontato al primo narratore e dalla madre. Così scopriamo ancora qualche cosa. Poi nella terza parte, che è raccontata da una sua ex collega che poi la ospita anche in casa sua, quindi diventa anche sua coinquilina, ecco, da questa ultima parte impariamo appunto tutti i risvolti, direi di perversione, sadomaso direi quasi, della relazione che lei aveva con questo collega, e quindi impariamo perché lei ha lasciato il lavoro e ha chiesto asilo, diciamo, nella casa di questa collega. Quello che lega queste tre storie è prima di tutto il fatto che veniamo un po' a ricomporre, cioè al lettore viene richiesto di ricomporre i tasselli del puzzle poco alla volta, no? Di mettere a confronto quello che racconta uno con quello che racconta l'altro e in qualche modo ricostruire la vicenda. Però le cose non quagliano mai fino in fondo. Faccio per dire, ci sono due cose che saltano all'occhio. Uno, che tutte le persone che vengono a contatto con questa donna in qualche modo ne sono affascinate, ma non sempre in senso positivo, però è una persona che è come il primo narratore dice, è come se avesse avuto un'aura intorno, per cui tu non potevi fare a meno di staccare gli occhi da lei. E ha qualche cosa che non sai se è negativo o positivo, ma qualche cosa che attrae. Sì. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, malgrado più che va avanti la narrazione, più che questi personaggi ci offrono dei dettagli, noi cerchiamo di ricomporre la storia di questa persona, però non riusciamo a capire perché lei... Forse si vuole punire, chissà. Ma non lo so, perché non so. Ecco, una cosa che così sconcerta è che lei non sembra mai soffrire più di tanto di queste situazioni tremende in cui si trova in mezzo. Forse quella che veramente la fa soffrire di più è la storia con questo personaggio, con questo uomo che a un certo punto la rinchiude in qualche modo, la rinchiude in uno sgabuzzino. Addirittura. Sì, questo è un estremo, insomma. Sì, è un estremo, in effetti. Non sto rivelando niente, perché questo lo racconta subito lei nelle prime pagine al primo narratore. E quindi, però, sembra sempre che le cose le passino attraverso. Non sembra quasi una persona vera, insomma, non so come dire. C'è un aspetto vegetale, tornando. C'è un aspetto vegetale, tornando al principio della tua presentazione. Altra cosa che noi non riusciamo mai a capire fino in fondo, e questo la critica, ho letto qualche recensione quando è uscito in Inghilterra, la critica è divisa tra chi dice che questo è un aspetto positivo e chi invece dice che questa è una pecca del romanzo. Noi non capiamo come fa questa ad avere tanti followers, cioè a diventare un influencer, perché va bene che posta questi video. Ah, ma questo è un mondo strano, eh? Infatti, infatti, è un mondo che io non sono del parere invece che sia un aspetto positivo del libro, questo fatto che, siccome fin dall'inizio ci dicono che lei era una persona che aveva qualche cosa che ti attraeva, anche se in qualche modo in maniera inquietante, ma che attrae. Ecco, non risulta poi molto strano che alla fine ci siano queste, sui giornali cominciano a apparire queste lettere di madri, di giovani che sono scomparsi, che la stanno seguendo, dopo aver certo visto i suoi video. È un sesto senso, come una sorta di attrazione di cui magari neanche lei sa di avere. No, lei lo sa. Ah, lei lo sa, direi ne è consapevole. Sì. Direi che lei ne è consapevole. Okay, lei sono... è un personaggio che... in tutte le tre storie, vista da tre diverse angolazioni, però risulta una persona che prende dagli altri ma non dà, che sfrutta gli altri finché le fanno comodo e poi va avanti per la sua strada. A me, che stava anche simpatica all'inizio, no, non è adesso simpatica. Non è più così simpatica. No. E infatti anche dalla tua presentazione iniziale, quando hai aggiunto, guarda, l'ho tagliata veramente con il macete, neanche con l'accetta, c'è tanto di più, e lo credo bene, sì, perché il libro non è minuto, no, ecco, non è un librone, ma non è neanche minuto, quindi spero bene che vi fossero aggiunti personaggi e circostanze. Personaggi non tanti, circostanze molte. E questo è per NN Edizioni. Il titolo, puoi ripetere? Crisalide. Eh già, anche questo è una attinenza con tutto ciò veramente molto forte. E ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Bene. Diciamo che non è proprio il mio tipo di libro, però mi è piaciuto. Sì, è un libro molto, ma più che va avanti, più diventa inquietante. È un libro veramente che ti tiene sulla corda. Lo metti in palio? Sì, lo metto in palio. Io l'ho letto credo in due pomeriggi. Proprio, ah, ok, scorrevole anche. Sì, perché anche questa può essere una pecca e può essere un punto forte del libro. Questi tre personaggi hanno una voce molto simile. Allora, di solito nei libri che sono raccontati da diversi narratori, invece si loda il fatto che ognuno abbia la sua voce. Questi invece sono simili, sembra quasi che siano un coro, capisci? Okay. Un coro di persone, come nelle tragedie greche, sì. Un coro che commenta la storia, ma anche un coro di persone che sono come noi, non hanno in comune il fatto di non aver capito bene cosa è successo. Cosa è successo, certo, ma per leggerlo ci vuole un fisico bestiale. per essere come lei ci vuole un fisico bestiale. Fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, mare, sai. Ci vuole un fisico bestiale perché siamo sempre ad un incrocio, sinistra, destra oppure dritto, dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai, di fare quello che ci piace, sai, di piace, sai. E come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio, mente sana in corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai, vento, sai. Ci vuole il fisico, il carico, il manico, ci vuole di non farsi prendere dal panico, il tocco magico, lo slancio atletico, l'afflato mistico, il diploma allo scientifico, il piano B da realizzare quando è sabato, la scarpa giusta e il materasso morbido. Ci vuole un Dio che ci protegga quando il gioco si complica, e un po' di pratica con l'informatica, e se si fa drammatica la situazione, jack, motore, azione. Ci vuole un fisico bestiale per stare nel mondo dei grandi, e poi trovarsi a certe scene con tipi furbi ed arroganti. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, il mondo è un grande ospedale, e siamo tutti un po' malati, ma siamo anche un po' dottori, e siamo tutti molto ignoranti, sì, ignoranti, sì, ma siamo anche un po' insegnanti, sai, insegnanti, sai. Vuole un fisico bestiale. È il mio autore preferito, grazie Silvia, e Luca Carboni. I suoi primi tre dischi più il singolo Mare Mare per me sono dei lavori bellissimi. Non sono un esperto di musica italiana, qua in duetto tosco-emiliano con Giovanotti, Giovanotti di origine toscana, Luca Carboni bolognesissimo che fa della territorialità. Cosa intendo per artista territoriale? Per me lui è l'esempio dell'artista territoriale bolognese, che se ne dica. Luca Carboni può parlarti, non so, anche di un pettine, di un telefono, ma traspare una bolognesità veramente molto molto forte. I suoi primi tre dischi sono molto belli secondo me, quindi può capitare che al venerdì abbiate modo di ascoltare in playlist in musica italiana con il brano del buongiorno Luca Carboni. E beh, è un'attinenza al libero con, sì, un fisico, sì, bestiale. Ma lo stavo ascoltando mentre andava, dice le cose cose, ci vuole il fisico bestiale, ci vuole l'abbigliamento giusto, il materassino, cioè, tutte le cose che c'ha questa signora. Che trovi nel libro. Che trovi nel libro. Poi niente, per quanto riguarda Carboni, Carboni è quello che ha scritto la mia canzone, Silvia lo sai, per è cui vero. Che nessuno mi tocchi Carboni. Capisco. Volevo dire un'altra cosa di questo libro. L'autrice dice che questo libro è un, virgolette proprio, citazione, atto di adorazione nei confronti di una, di un romanzo che di una, di un'autrice coreana, Han Kang, che mi pare tu abbia già presentato. Io ho presentato con un lavoro L'ora di greco per Adelphi, è in premio Pellegrino 2024, ecco. Siamo molto in anticipo, leggerissimamente in anticipo. Lei nel 2016 aveva scritto un romanzo chiamato La vegetariana, che parlava di una signora, una donna molto ordinaria, una casalinga, che in seguito a un sogno raccapricciante che fa, decide di eliminare la carne della sua, dalla sua vita, ma non solo di non mangiare più carne, di non tenerla più in casa, di non cucinarla più per gli altri, di non toccarla più, di non avere eliminazione più totale, di non avere più rapporti carnali con suo marito. Dove c'è carne lei scappa, niente. E alla fine quella diventa veramente una pianta alla fine. Ah, ok, c'è una metamorfosi kafkiana reale. Quindi alla Metcalfe era piaciuto moltissimo questo romanzo, che ha avuto un grande successo in Inghilterra. Cosa interessante, ha avuto il romanzo viene tradotto in inglese ovviamente e poi è tradotto anche in italiano, ma in tutta Europa le versioni che noi abbiamo non vengono direttamente dal coreano, ma vengono dalla traduzione inglese, di cui i recensori coreani si sono lamentati perché era troppo bella, perché abbelliva troppo il romanzo, era troppo creativa. È arrivata anche questa critica in meglio, se vogliamo, invece, che però infastidiva, ecco. E invece la Metcalfe proprio è su questa versione inglese, che di questa versione inglese si è innamorata, e da lì ha deciso di scrivere anche lei un romanzo di una persona che diventa quantomeno immobile. E allora salutiamo Benny, che scrive grande, anche a me piace tantissimo Luca Carboni. Bene. Perfetto, abbiamo azzeccato anche la playlist. È il momento del quiz. Ok. Noi vogliamo sapere 333-180-9494 per avere Crisalide Edizioni NN e l'autrice che mi sfugge. Anna Metcalfe. Vai. Allora, mi hai bruciato il quiz che in origine volevo fare. No, ma ne avevo già pensato un altro. Ok, meno male. Perché quello era troppo facile. Volevo chiedere chi duettava con Carboni in questo brano, ma l'hai già detto tu, che è Jovanotti, e comunque era troppo facile. E invece faccio un quiz difficile. Allora, il libro si apre con un'epigrafe, una citazione da uno scrittore naturalizzato americano, ma non americano, naturalizzato americano, che è uno dei più grandi del Novecento. E chiaramente il libro si intitola Crisalide, quindi è una citazione che parla di farfalle, e questo scrittore era un grandissimo entomologo ed era tanto esperto di farfalle che il Museo di Zoologia Comparata dell'Università di Harvard nel 1940 gli ha dato l'incarico di riordinare la propria collezione di farfalle. Allora, io vorrei sapere chi è questo scrittore famosissimo, naturalizzato americano, che era anche un grande collezionista di farfalle e ha scritto anche dei trattati di entomologia, un grande entomologo. Al 333-180-9494 e intanto Be Still, Be Still un altro idolo, okay. E questo è il mio idolo proprio, okay. Robin Hitchcock, a tra poco. Although her eyes are open and she's staring at the sea, what is swimming through the Allora Silvia, anche tu hai dischi che saltano, non lo so io. Mi dispiace perché è uno dei miei dischi preferiti. Vediamo se riusciamo a recuperarlo cambiando lettore. Intanto mettiamo un po' la base e proviamo questo cambio. Mm. Sia il titolo ma anche il nome del gruppo, perché le docce fredde, the cold showers, hanno portato Motionless, del resto i vegetali. non è che siano sempre in movimento, certo, ma infatti sono elementi vivi, pieni di vita, ma non sono famosi per la loro motilità, ecco, se ti vogliamo. Dicevo appunto che questa volta la playlist è stata proprio scelta ad hoc, prima avevamo Be Still, cioè stai fermo, e adesso abbiamo Motionless. Abbiamo anche una vincitrice, tanti e tante ovviamente hanno risposto al quiz, io non sapevo, mea culpa, mea grandissima culpa, ho imparato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori del Voltiamo Pagina che Nabokov ha la passione dell'entomologia, aveva la passione di portare approfondimento e ricerca fino a essere contattato da degli atenei importanti per avere notizie e collezioni di farfalle. La risposta esatta intanto arriva da Paola. Buongiorno, la risposta al quiz è Vladimir Nabokov e aggiunge anche buon anno. Grazie. Buon anno anche a te, ben accetto. Poi gioca per stare con noi Andrea, che lo aggiunge per la Gloria, che non so se è una rivale della sua fidanzata questa Gloria. Alla fine Gloria deve avere un sacco di libri a nostra insaputa. Salutiamo anche Cinzia, che risponde esattamente, e anche un'altra Paola. Qui c'è un caso di omonimia, vedremo come risolvere. Ecco, la Paola vincitrice riceverà una telefonata, ok? Abbiamo due Paole. Arriva un po' in ritardo anche Jarno da Calderara, che saluto per questo Voltiamo Pagina. Procediamo allora per quanto riguarda il libro che brevemente vi presenterò io. Invece è una lettura atipica per me in tutti i sensi. Allora, lui è un autore italiano, Sandro Campani. Oltretutto ci parla di un territorio che io ho conosciuto all'inizio della mia presenza all'interno dei depositi della memoria. Ho avuto dalla Val Tidone fino alla Val Marecchia tutto l'Appennino tosco-emiliano. Non ho una grande conoscenza e neanche una grande attrazione, come ben sapete. A me basta andare sulla montagnetta della Lunetta Gamberini che già mi gira la testa. Per cui, insomma, queste strade tornanti, Calanchi, non il cognome di Stefano, il nostro notaio, ma i Calanchi veri e propri, l'altitudine, la chiusura, non mi danno una grande sensazione da portarmi a mio agio. Però in questo lavoro sono un po' tornato indietro nel tempo e ho ritrovato quell'aspetto di una parola che poi ha portato un significato scientifico alla microsensazione, che è un aspetto liminare. È un fenomeno fisico per cui un piccolo cambiamento, una piccola cosa può avere reazioni grandissime. Viene portato nello studio e negli esperimenti tra fisica e chimica. Un piccolo aspetto, un piccolo movimento può portare poi a conseguenze anche piacevoli, forti, fortissime e indimenticabili, e arrivano invece da un'attinenza che ha questo libro, cioè il titolo, che è Alzarsi presto. Ecco, in questo caso ha un'attinenza molto forte con me. Aggiungo un'altra attinenza, vedete poi come piano piano arrivano, dal sottotitolo Il libro dei funghi, e tra parentesi è di mio fratello. La prima parte, io sono figlio unico, quindi no, ma per quanto riguarda il libro dei funghi, beh, se Nabokov con una grande passione per le farfalle, io ho una grande passione per i funghi, ma non per tenerli in collezione o per studiarli. Sono un divoratore di funghi, per me sono buonissimi. Ma non vai a funghi? Non vado a funghi, sono molto pigro, però do soddisfazione. Posso assicurare che fra risotti e quant'altro do molta soddisfazione. Alzarsi presto, appunto, è un'attinenza per chi dalla montagna, da queste valli, ci sono valli da tanto e valli da poco. Quella di Sandro e suo fratello è una valle da poco, almeno secondo loro. Non ha montagne famose né attrazioni turistiche, ma boschi, ombre, angoli umidi e segreti. E poi sottoterra tesori preziosissimi, e vengono citati, e qui è veramente altro che una sensazione microliminare o una sensazione fortissima, la gioia nel vedere il tuo fedele amico a quattro zampe, il cane che accompagna queste ricerche, vederlo ritornare con in bocca un tartufo. Dice: oh, questo è uno degli aspetti che più porta una gioia, non tanto per il palato, ma anche per aver trovato un tesoro inestimabile. È certo che tutte queste sensazioni vengono raccolte in questo lavoro, che è ambientato nell'Appennino tosco-emiliano all'altezza del Modenese, da quello che ho intuito, perché il paesino vero e proprio non verrà mai citato in questo lavoro, che leggerete in un pomeriggio, e lo farete in maniera assolutamente piacevole. Tanti sono i contenuti liminari, che possono sembrare piccoli ma che in realtà hanno una trasformazione con il presente e con il contemporaneo quanto mai attinente: la relazione tra due fratelli, la voglia di non perdere un territorio, le problematiche legate al commercio e legate alla globalizzazione che porta a dimenticare questi aspetti. Parlano di soldi, di lavoro, dei problemi di tutti i giorni, dei problemi del mondo, aspettano il temporale, maledicono la siccità che spinge a faticare il doppio per procurarsi funghi, per procurarsi quello che miracolosamente un bosco può dare. Beh, è un libro che, anche se non è esattamente vicino per il territorio, poco importa. So benissimo che tante e tanti sono gli appassionati di questi aspetti e di queste realtà. E in conclusione vi posso dire che ancora più posso aggiungere che è molto particolare una postfazione, che è un alfabeto, è un vocabolario che ha i termini particolari di queste ambientazioni. Non so, la manita per quanto riguarda la fungaia, i funghi, e la bollata. Sapete cos'è la bollata? In nabulè si dice in bolognese, no? Anche se non si parla di funghi. Cioè una nabulè è difficile da tradurre, cioè è un insieme, è un trovarsi tutto in un punto, in una bulè, tutto. E la bollata è quella parte del bosco, del prato, dove crescono in maniera copiosa i funghi. Ho trovato una bollata di funghi, è un ritrovamento molto molto bello e molto ricco, se vogliamo. Non solo, ci sono approfondimenti per quanto riguarda queste passioni e soprattutto questi motivi di vita. Dal punto di vista umano è il dialogo tra i due fratelli, è l'alzarsi presto, è la problematica nel mantenere la casa di una piccolissima frazione che si sta spopolando, che ha avuto anche motivo di rilancio grazie, se vogliamo, al turismo, ma che purtroppo in questo momento è assolutamente assente. Resta quello che è un percorso, appunto, legato alla ricchezza del territorio. Per chi ama l'Appennino, questo lavoro è un tutti i tempi, non nascondo che io stesso ne sono rimasto molto attratto. È Sandro Campani, Alzarsi presto, il libro dei funghi e di mio fratello, consigliatissimo per chi ama tutte le sensazioni che ho appena descritto. Senti, non ho capito la casa editrice. Einaudi. Ah, bene. Ed è, come puoi ben vedere, un lavoro, beh, intanto una copertina rigida che su un libro piccolo, per me in questo caso io amo di più i libri come stai presentando tu come formato, ma quando è così minuscolo, ecco, se la copertina è rigida mi dà un'idea, chissà, è un aspetto estetico che poco poi, diciamo, conta con un contenuto che consiglio indipendentemente dalle vostre passioni territoriali. Questo, che tu sappia o se c'è scritto, è un autore che aveva già fatto altre cose, sì, un'opera prima? Assolutamente, è un autore che è nato nel 1974, vive e lavora in questo paesino che non viene citato, perché l'Appennino tosco-emiliano va dalla Valtidone di Piacenza fino alla Valmarecchia di Rimini, per cui vallo tu a trovare la località nascosta. Dove è nato nel 1974, ha pubblicato È dolcissimo non appartenerti più, edizioni Playground, nel paese del Magnano, Italic Paiud cose del 2020 che non conosco. La Terra Nera da Rizzoli e per Einaudi ha pubblicato Il Giro del Miele e I Passi nel Bosco. Sono tutti titoli comunque che hanno una, sì, una forte rivelano quelle che sono queste passioni legate al territorio. In questo caso arriva con Alzarsi Presto Il Libro dei Funghi di mio fratello e arriva anche il mio quiz. Attenzione, anche il mio non è facilissimo. Boh, forse. Allora, restiamo sull'Appennino, come vi ho detto, nel lavoro di ricerca come elettricista nei depositi della memoria, mi è capitato di lavorare o di passare anche per questo paese. Vi posso dire che ovviamente è tosco-emiliano, quindi è un posto di confine, un posto liminare. A me, nonostante tutto, piace molto. E io ve lo dico in dialetto, voi me lo dovete riscrivere in italiano. In dialetto viene chiamato Scargalesan, scarica l'asino, Scargalesan. Se io vi dico siamo o andiamo a Scargalesan, dove andiamo? Dove si dava un po' di riposo appunto all'animale che è citato nel nome di questo paese, perché i viaggi di percorso ovviamente in quest'apice sulla Futa tra l'Emilia e la Toscana portavano a questa stazione che Scargalesan, cioè Monghidoro. E bravissimo Marco, sei arrivato, hai risposto subito, quindi alzati presto, so che sei mattiniero o almeno lo immagino, per te il lavoro alzarsi presto, Sandro Campani, da ritirare alla Ubic, che ringrazio tantissimo, la libreria di via Irnerio 27, libreria Ubic Irnerio, che collabora con il Voltiamo Pagina e che ha insistito per la presentazione di questo lavoro. Grazie. D'oro, dove è nato Gianni Morandi, è vero Paola, ma hai già vinto. Se non avete, per così dire, motivo di azzeccare, avrei aggiunto: ma è dove è nato Gianni Morandi? Sarebbe stato l'aiutino, ecco. Sta spumando Body and Soul di Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, sì. E quindi la playlist dedicata al libro da te presentata continua con dei titoli assolutamente attinenti, eh? Body and Soul, Coleman Hawkins. Noi chiudiamo con i Brand New Edis. Our house band, the heavy tones, playing for you this evening. Scarperia vicino a Vaglia. No, non è Scarperia. Comunque ti ringrazio tantissimo, Dino. Sapevo anche che Luigi avrebbe provato, ma è arrivato leggermente in ritardo. Scargalesan, sì, e Monghidoro. Poi altre risposte giuste. Ha riprovato Jarno da Calderara, più fortunato altre volte in queste circostanze da podio, ma non è andato a premio. Grazie Jarno. Noi ci dobbiamo salutare, cara Silvia, e darci appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie, noi siamo impegnati con il video, a breve con la conferenza stampa del Jazz Club Il Torrione, domani con Art City per la rubrica In Mostra e tra pochissimo l'edipo enciclopedico Liberi Dentro e la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Pronti per il video? Ok. Pronti per il video? Ricordiamo che alla fine del video c'è anche la playlist. Ok, grazie Silvia, una buona giornata. Grazie anche a te, a tutti. Ciao. Ciao.